Iniziamo finalmente a parlare di festival estivi e iniziamo con un evento che si terrà qua vicino, non è a Bologna ma è a Ferrara, tra pochissimo tempo. Un evento che tra l'altro è molto famoso. Parliamo di Ferrara sotto le stelle e siamo al telefono con il direttore artistico Corrado Nuccini che ci racconterà un pochino come si svolgerà questa edizione e capiremo anche com'è ricominciare a fare un festival dopo 2 anni di stop. Intanto benvenuto, Corrado. Ciao, ciao a tutti, grazie. Grazie a te per essere qua con noi su Radio Città Fugico. Io ti chiederei intanto come va, come sta andando la preparazione di questa nuova edizione di Ferrara sotto le stelle? Ah, sta andando bene, anche se devo dire che abbiamo tutti grande voglia di ripartire, ma questi 2 anni di intermittenza hanno, secondo il mio modo di vedere le cose, hanno cambiato molto la percezione e la modalità di fruire ai concerti dal vivo. Quindi c'è bisogno di ripartire, ma c'è anche bisogno di ricostruire. Non basta pensare di aver fatto uno stop su un percorso che ora magicamente riprende. Bisogna cercare di ripartire in una maniera diversa, riprendere il pubblico, riportarlo alla musica dal vivo e ricominciare. Ricominciare come se si partisse nuovamente da zero. Questa edizione si terrà dal 15 al 19 giugno, poi con un'ulteriore data che sarà a luglio, insomma. Ti chiederei un po' questa edizione se ha qualcosa di diverso rispetto alle precedenti e come avete creato diciamo, il programma appunto di Ferrara sotto le stelle, che finalmente vede nuovamente dei nomi non solamente nazionali ma anche internazionali. Il festival chiaramente sì, è diverso dagli anni scorsi, gli artisti sono in buona parte diversi. Abbiamo cercato di portare avanti una linea di continuità con quello che abbiamo fatto l'anno precedente, cercando di selezionare un mix di artisti che possono venire da ciò che è la nuova scena italiana e cercare di reintrodurre alcuni ospiti internazionali. Partirei proprio da qui. L'ultimo concerto, partiamo a ritroso, il 15 di luglio in Piazza Trento Trieste ci sarà The Smile, che è la nuova band fondata da Tom York e Greenwood dei Radiohead, e quindi questo per noi è un appuntamento assolutamente top e apice del percorso di Ferrara sotto le stelle di quest'anno, che è un festival, come dicevi tu, non solo famoso ma anche storico, perché è la 26ª edizione e credo che sia un dato molto importante da far presente, perché nella mancanza, che si dice spesso in Italia, di cultura dei festival, poter essere arrivati fino alla 26ª edizione è un segnale di forza, tenacia, capacità anche e soprattutto delle persone che mi hanno preceduto di riuscire a portare questo festival così avanti nel tempo. Partiamo mercoledì 15 con Giorgio Poi e Bunker 44, che fanno parte di un'anteprima di un progetto che si chiama Solido, che vede in rete, oltre al nostro festival, anche a cielo aperto di Cesena e Arti Vive di Soliera. Poi proseguiamo con giovedì 16, col concerto Un recupero dall'anno scorso, Venerus, che viene a portare la sua musica colorata e le sue influenze che vanno dal soul alla psicadelia. Proseguiamo continuando con musica che mette insieme lo spirito di ripartenza, di festa, d'allegria e di colori che vogliamo portare in questa edizione, Cosmo più White Mary, e saranno queste venerdì 17. Il giorno dopo, il sabato 18 giugno, un altro ospite internazionale che sono gli Jesus & Mary Chain, una band iconica storica che ha formato tanto del suono alternativo indipendente che poi negli anni 90 hanno formato tutto quello che è lo shoegaze, pop, psicadelico. Proseguiamo poi con l'ultima giornata, che è il 19, domenica 19, con la rappresentante di lista aperta da un cantautore che si sta facendo strada, che si chiama Ibisco, che abbiamo invitato a questa edizione. Anche come generi musicali, comunque, diciamo quello che potremmo vedere in questa edizione, in questa 26ª edizione di Ferrara sotto le stelle, è molto variegata, no? C'è molta differenza tra i generi musicali. Io vorrei chiedere come mai questa scelta e come è avvenuta la scelta degli artisti, che si esibiranno appunto sul palco. Ma guarda, la scelta è variegata, ma fino a un certo punto, nel senso che il festival ha una continuità di proposta che è sempre quella che prende dalla musica italiana e internazionale, cercando il più possibile di fare proposte che siano esclusive, che guardino a una musica che sia di ricerca, ma anche che possa essere apprezzata e fruita da tante persone. Quindi se andiamo dal concerto di Cosmo a Gisele Mary Chain, quindi dall'elettronica più danzereccia, la musica che viene più dall'Inghilterra, dalle scene anni 80 più dark, però se uno vede probabilmente ci legge un filone di coerenza e di narrazione che fa sì che il festival poi abbia una sua fruibilità a 360 gradi. In questa edizione, tra l'altro, cambia anche la location, che insomma negli anni comunque ha visto protagonista di Ferrara sotto le stelle un luogo diverso, no? Luoghi sempre diversi della città di Ferrara. Chiederei allora se ci puoi spiegare come mai è cambiata la location, cosa cambierà quest'anno e anche se ci sono altre novità all'interno di questa edizione. Ma la location è la nuova Darsena, che è una parte della città, che come dice il nome è nella Darsena cittadina, che è stata ristrutturata e ricca in questa area della città, e crediamo che sia importante la musica, soprattutto come ti dicevo in apertura, questa necessità di riabituare le persone alla frequentazione della musica dal vivo, sia importante farlo abbinando questo alla scoperta di nuovi luoghi cittadini, di nuove possibilità che la città di Ferrara offre a tutti i propri cittadini, ma non solo, noi siamo aperti, anzi questa intervista lo dimostra, a tanto pubblico che può arrivare da Bologna, che può arrivare dalle altre province e città emiliane, ma anche dal Veneto e perché non da tutta Italia. Grazie mille per la disponibilità, per averci raccontato questa edizione. Ricordiamo che abbiamo fatto questa chiacchierata con Corrado Nuccini, che è il direttore artistico di Ferrara sotto le stelle, che si svolgerà appunto dal 15 al 19 giugno e con un'ulteriore data a luglio. Noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi e per averci raccontato questa edizione. Grazie a voi, vi aspetto e cerchiamo di supportare, di portare avanti questa ripartenza della musica dal vivo insieme.